passione africana. Sem isuis. Mane wanye bose sirina musango. Se guardiamo al continente in modo globale, molti esperti sottolineano il problema centrale della corruzione. Lei cosa ne pensa? Perché da Sekou Touré a Bokassa alcuni regimi erano molto corrotti, altri forse un po' meno, e anche il suo governo e poi quello del suo successore, Chiluba, hanno dovuto fare i conti con le accuse di corruzione. Yes, during my time we fought corruption very hard indeed. It was part of fighting, as I said earlier, poverty. Sì. Ai miei tempi in realtà abbiamo lottato molto duramente contro la corruzione. Faceva parte della lotta contro la povertà e tutte le sue conseguenze: fame, ignoranza, malattia, criminalità, corruzione e soprattutto lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Perché l'amore di Dio per noi non ci permette di agire in questo modo. Devo aggiungere che abbiamo lottato anche con l'apartheid in Sudafrica. Abbiamo aiutato la gente in Angola e in Mozambico a lottare contro il colonialismo portoghese. Anche in Rhodesia del Sud. Quando siamo diventati indipendenti, li abbiamo aiutati a lottare contro il colonialismo inglese. Lo stesso in Namibia e anche in Sudafrica. Era una lotta contro l'idea malvagia dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Un concetto fondamentalmente sbagliato. Nella nostra lotta contro l'apartheid, abbiamo fatto in modo che anche nello Zambia indipendente non ci fosse razzismo. Nessun razzismo in Zambia. Eravamo un paese con diverse razze. Avevamo 73 diverse tribù indigene. Poi si sono aggiunte altre tribù. Le tribù inglesi, le tribù irlandesi, le tribù scozzesi, le tribù francesi e altre ancora, le tribù indiane. Sono arrivate qui da fuori 8 o 10 tribù. C'era gente di pelle diversa. Non avevamo nessuno diritto morale di lottare contro il razzismo e l'apartheid per poi imporlo ad altri uomini perché erano di altra razza o altro colore. No racial discrimination against other colors by black people in Zambia. No. Kenneth Kaunda, parliamo un po' della RDC, la Repubblica Democratica del Congo. Il suo parere ci interessa particolarmente perché quella terribile guerra scoppiata nel 96 e che ha fatto direttamente o indirettamente milioni di morti. E come vede la situazione attuale, la pace tra il Ruanda di Paul Kagame e la RDC del presidente Kabila, una pace che può reggere secondo lei? Something that we can rely on. I think peace can come to those countries. The Congo. Penso che vi possa essere pace tra questi paesi. Nel Congo, per molti anni sotto governo belga, che cosa abbiamo visto? Niente strade, niente ferrovia, niente aeroporti, niente. Solo lo sfruttamento delle risorse che prendono la strada del Belgio. Quando il grande leader africano Lumumba ha preso il potere, il presidente Nyerere, il presidente Obote e io siamo andati lì. Sarà stato nel 61 o nel 62. I think it must have been 61, 62. Lei non era ancora presidente? You weren't president yet. I was not yet. We're just fighting, fighters. No, stavamo ancora lottando. Ricordo di aver detto che ci sarebbe voluto molto tempo prima che il Congo arrivasse al grado di sviluppo che avrebbe dovuto avere. Penso di aver detto 50-60 anni. Il presidente Kabila ha fatto la cosa giusta, aprendo le porte alla Repubblica Popolare Cinese. Loro ci possono aiutare. Ha visto come hanno contribuito alla costruzione della Tazara, l'arteria ferroviaria tra la Tanzania e lo Zambia? Se il presidente Nyerere e io ci fossimo rivolti ai paesi occidentali, chiedendo loro di aiutarci a costruire la Tazara, perché il Sudafrica e la Rhodesia ci bloccavano, la risposta sarebbe stata: non preoccupatevi, le cose si arrangeranno. Io mi sono rifiutato. Così ci siamo rivolti alla Cina. Vede, qui su questa foto sta il presidente Mao. Accanto a lui ci sono io. Il presidente Mao si è dichiarato d'accordo di aiutarci. Ha mandato qui i suoi esperti. Hanno dovuto persino combattere contro i serpenti. 4 cinesi sono morti. Questi 64 cinesi hanno costruito la ferrovia. Certo, ci sono state delle difficoltà, ma la Cina ci ha aiutato a costruire la ferrovia. Guardi il Congo oggi. Con l'entrata della Cina stanno costruendo la ferrovia in Congo e anche le strade. the conflict between Rwanda and Congo will pass. Rimaniamo nella Repubblica Democratica del Congo. La cosiddetta guerra mondiale dell'Africa, quella del 96 e poi del 98, è stata una guerra etnica o piuttosto una guerra legata alle risorse minerarie, una guerra motivata in sostanza dall'avidità, come spesso è successo nel continente? Non ne dubito minimamente. Sono d'accordo con lei. La ricchezza è alla base della guerra. I più forti cercano di sfruttare i più deboli in molti campi. In questo senso è importante un governo centrale ben organizzato. Con l'aiuto organizzativo della Cina, ho speranza che nel Congo torni a regnare la pace. Lei si riferisce spesso alla Cina. Non crede che la Cina si stia comportando come un paese colonialista, cercando di appropriarsi delle materie prime in Zambia o in Congo, delle ricchezze dell'Africa, insomma? Yes, one has got to say the difference between China and the other countries. Sì. Bisogna dire che la differenza tra la Cina e gli altri paesi in termini dell'analisi dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo per me è chiara. Ho detto che i nostri fratelli e le nostre sorelle del Belgio sono rimasti qui per anni, senza costruire una strada o un ponte. La Cina è appena arrivata e si vede la differenza. Questo conferma la mia analisi. Certo, la Cina estrae rame, oro e altre materie. Altri paesi fanno lo stesso, ma la Cina costruisce, mentre gli altri stanno solo sfruttando. C'è una grande differenza. Parliamo del post-indipendenza. In molti paesi la leadership non ha accettato il sistema multipartitico. Anche lei era contrario, per esempio, al multipartitismo. Perché? Quando noi stavamo lottando per la nostra indipendenza, c'erano l'Angola, il Mozambico, lo Zimbabwe, il Sudafrica e la Namibia. Se avessimo pensato di adottare dall'inizio un sistema multipartitico, le dico che la pace qui in Zambia sarebbe stata messa a repentaglio. Lei ci stava dicendo che il sistema multipartitico rappresentava un rischio per i giovani paesi indipendenti. Because of so many forces at work, which were interested in various forms of wealth. I'm talking about minerals. Esattamente, perché vi sono molte forze in gioco, forze che sono interessate alle diverse forme di ricchezza, parlo delle materie prime. Volevano sfruttare queste risorse con altre persone, piccoli partiti, sindacati, eccetera. Questo ha creato le condizioni che hanno spaventato i leader dei nuovi paesi e così hanno rinunciato a creare un sistema multipartitico. Più tardi abbiamo cambiato in modo pacifico, senza violenza. Presidente Kaunda, mi scusi se insisto su questo punto, ma non crede che alcuni capi di Stato ne abbiano approfittato per arricchirsi e per restare al potere e che hanno usato il rischio di cui parla lei solo come una scusa in fondo? È vero, sono d'accordo. È successo. Qui in Zambia, però, no. Quando siamo arrivati al potere, abbiamo deciso di ridurre i costi. Abbiamo tagliato i nostri salari. Anche il mio, quale presidente, perché sapevamo che il paese era troppo povero. Non volendo lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, non abbiamo permesso ai ministri di fare degli affari in proprio. Qualsiasi ministro sorpreso a trattare altri affari veniva licenziato. C'era disciplina. Questo è continuato finché siamo rimasti al potere. Nell'intervista Kenneth Kaunda alterna ricordi, analisi, considerazioni. Termina parlando della sua militanza, quella odierna contro la piaga dell'AIDS che ha colpito il paese e direttamente la sua famiglia. KK o Old Man, come chiamano affettuosamente in Zambia questo grande vecchio della storia africana, ci congeda in modo originale cantando un inno di lotta, lotta contro la malattia. Girls of Africa, rise and fight. Girls of Africa, rise and fight. In the name of great Africa, we shall fight and conquer it. Forward ever. Radio 24 ed Eni vi hanno presentato Passione Africana.